Ma scusi, lei vuole guarire ed essere cosciente? Sì. Vuole essere consapevole della realtà che la circonda? Sì. E se la sente di affrontare il mondo così come la si presenta, senza palliativi? E Sì. allora prenda questa Pillola rossa. pillola rossa. Non sono io a non essere credibile, non sono io a dovermi giustificare. Voi rinchiudete la gente, la fate ammattire nelle fabbriche, negli ospedali, nelle caserme. Io creo sogni, voi li uccidete. Io parlo sboccato, voi nemmeno parlate la nostra lingua. Ci lasciate ai bordi, ci fate vedere donne che non potremmo avere, posti dove non potremmo entrare, cose che non potremmo comprare. Non siete diversi da noi, ladri e puttane vestiti bene. Voi ci rubate il tempo, che è l'unica cosa che abbiamo. Ci insegnate a tradirci, a non fidarci più l'uno dell'altro. Voi spacciate certe droghe nelle farmacie e ci arrestate se ne vendiamo altre. E noi ve lo lasciamo fare tutto questo. Perché nella vita non c'è mai scelta, tranne che in certi campi, ma mai in quelli importanti. Ma io non voglio essere un prodotto del mio ambiente. Voglio che il mio ambiente sia un mio prodotto. In realtà noi stasera non la volevamo la pillola rossa. Pronto? Pronti, pronti, siamo pronti. Siamo in onda col microfono, non sembra. Sì. Non ha puntata, pillola rossa. E facciamo la trasmissione lo stesso, anche se stasera non la volevamo, ma facciamo la Sì, trasmissione lo stesso, quindi la realtà. occhiali da sole, scuri, Spiaggia c'è davanti agli occhi. musica, Buffaland a palla. Buffalando. E va bene, iniziamo. Il solito ritardo però va benissimo. No, ritardo clamoroso e cronico, Infatti oserei dire. faccio subito, perché poi mi dicono sempre, faccio subito la dedica, eh? Faccio subito la Grande, dedica, grande di perché dopo dedica, anche 10 poi. puntate, poi Ma tu sei sicuro che stiamo andando bene, no? Cioè, sì. se togli il mic, usciamo lo stesso. Spegni un attimo. Pronto? Pronto? Pronto? Ah, Pronti, ci pronti. siamo. Sì, è un po' alto questo. Vabbè, a Claudio e Violetta, la nona puntata, eh? Va bene. Così abbiamo messo, diciamo, tutte le cose. Iniziamo con un pezzo, diciamo, inaspettato. Va bene, sì, No, non è assolutamente, da me assolutamente. inaspettato, perché questi anni 80s. Ma allora, Non sì, è una sorpresa così, ma vabbè, era un discorso lungo sugli ascoltatori, ma era un vabbè. discorso lungo sugli ascoltatori, sì, nel senso che sì, avevamo promesso, è vero, che saremmo entrati in contatto con voi, ma sapete, le cose non vanno a volte come succede. Stavo pensando che forse abbiamo 29 ascoltatori e una trasmissione, non so, un numero che mi sono figurato, ma sparsi per 29 province e quindi copriamo tipo l'Italia intera più di Radio Maria. Forse anche la Francia, forse qualcuno in Forse Francia. un pezzettino. Non so Sì, se. secondo me un po' di più, però poco ci importa. Ma c'è un Per terzo questo continente a scelta. ho fatto la idea, perché cioè, queste due ascoltano sempre, questa è Viola e Una Claudia. dedica a Viola, ripetiamo, Cioè. piccola punk. E comunque la grande sorpresa è che veramente forse della prossima puntata potrete messaggiarci. Ma forse. Questo è un buon 70% di probabilità, direi. Quindi poi daremo un numero di telefono Dai, e le vediamo. altre notizie prossimamente. Vediamo se viene la sorpresa col pezzo. Se roviniamo la sorpresa, non lo so, forse dovevamo farlo più avanti la Col dedica. pezzo Urca, che bello, sentiamo che Urca, che pezzo è. bello! No. posso? Non posso. Potrei. Non posso. Sì. Ah. Dimmi che a Bologna ci si arriva col battello. Urca che bello, urca che bello. Dimmi che il cavallo non è figlio del cammello. Urca che bello, urca che bello. È bello sì, è bello no. È bello il lupo da cui nasce il po'. È bello no, è bello sì. Ma la storiella non finisce qui. Se tutto va bene, siamo rovinati. Ma deve andare proprio bene tutto. Tutto, tutto, tutto. Dica, dica tu, dica tu. Dimmi che la zucca fa l'amore col pisello. Urca che bello, urca che bello. Dimmi che il gorilla l'ha promosso colonnello. Urca che bello, urca che bello. È bello sì, è bello no. Sì, è bello no, è bello il buco da cui nasce il po'. Dimmi che la triglia mette il dito nel nasello. Urca che bello, urca che bello. Dimmi che la mucca è la mamma del vitello. Urca che bello, urca che bello. Dimmi che era bello quando c'era Carosello. Urca che bello, urca che bello. Dimmi che il bidone è parente del bidello. Urca che bello, urca che bello. È bello sì, è bello no. È bello il buco da cui nasce il po'. È bello no, è bello sì. Posso? Ah, adesso posso. E io non me ne vado. Devo andare. Vado. Vado e torno. No, vado. Vado via! Vado. Vado via! Vado. Vado via! Uè, questo era Enrico Beruschi, eh. 1980. Enrico Beruschi, mica, mica Gigiole. Urca che bello. È stata una sorpresa per tutti. Come sarà la prossima? Come sarà la prossima? Perché giustamente saltiamo di pari in frase. La la la la la. Oh, oh, oh. Anche questi c'erano un sacco di dediche volendo, perché il titolo. Porto. Il bestiame. C'ho i problemi. La cosa Niente, i bestiame, cioè i problemi da Catania, dalle parti di Catania, non so che sono. A proposito di problemi, un problema rimandato, per il momento è solo rimandato, è il problema del divieto che era stato fatto alle moto, quelle vecchie. Infamoni bastardi, poter... anche con le vecchie se lo prendono. Anche con le povere vecchie. Con le povere. Di entrare a Milano per sostituire il parco moto. Bisogna sostituire il parco moto. L'industria necessita di produrre nuove schifezze. Dopo un paio di manifestazioni, e forse perché siamo un po' vicino alle elezioni, sarà anche questo, non lo so. Ci ho pensato anch'io distrattamente. E quindi problema rimandato a ottobre dell'anno prossimo. Si vedrà. I caos osmosi ci fanno da sottofondo gentilmente. Scusa. Non volevo interrompere. Vabbè, niente, volevo dirvi questa notizia qua che prosegue un po', diciamo, l'andamento viabilistico della Milano da bere. Bah, e quindi vi beccate è aria. È aria pulita? Aria pulita è tutto da vedere. Nessuno ha il diritto di morire. La vita è un dono sacro, insostituibile. E se ci sono dei problemi, il dovere di ogni essere umano è risolverli con la ragione. Vedi, questa ragazza di cui mi hai parlato, bisogna capirla. Come fa a sposare uno come te? Ma sono così brutto. Ma su questo ci si potrebbe anche passare sopra. Ma perché non sente la sicurezza? Vuole l'uomo solido, uno che le offra la tranquillità economica. Per esempio, potresti invitarla in crociera, comprarle un visone, una fuoriserie? Beh, no. Lo vedi, anch'io, quando ero spiantato come te, mi ero innamorato di una ragazza che non mi voleva sposare. Ma quando mi sono sistemato, e anche bene, mi ha detto sì. Guarda, hai capito? Ti devi dar da fare, mio caro. Sono 2 mesi che mi do da fare e non ho combinato niente. Non sono nemmeno riuscito a suicidarmi. Lo sai che ti dico? Mi sei simpatico. Ti metteresti con me? No, in che senso, scusi? No, perché io... Ma cosa hai capito? Parlo di affari. Ah. Ti voglio dare una chance. Chance? Sei contento che ti do una chance? Beh, sì. È solo che non saprei dove metterla. Ho la casa piccola, è ingombrante. Ma no, significa una possibilità di lavoro. Ah. Ti andrebbe di metterti in commercio? Sì, a me è sempre piaciuto il commercio. Basta che non sia roba rubata, Ah, regolarmente pagata. Io compro all'ingrosso e tu vendi al dettaglio. Puoi cominciare anche domani. E di che cosa si tratta? Erba. Prego? Erba. Ma come, dovrei ritornare a fare il contadino? Ma che roba per i ragazzi. Vendita al dettaglio all'uscita delle scuole. Non capisco. Scusami, sei? Ci sei? O lo fai, lo stronzo? Gli vendiamo la marijuana. La droga. Il commerciante è l'uomo del pane. Domani sarà festa in questo stupido paese, ma non per noi che stiamo a lavorare. L'uomo del pane fece finta di niente, se ne andò tranquillamente. Aveva tante, tante, tante cose da fare, poi lui non ci poteva fare niente. Signora, disse per favore, sono qui a quarto d'ora e lei mi deve ancora servire. La prego, signora, mi scusi, che cosa vuole? Vorrei un etto e mezzo di prosciutto e un po' di cipollina. Ancora cipollina, ancora cipollina. Va bene, gliele incarno. Così fanno 60.000 tonde. Mi scusi, non ho il resto. Le do anche 400 caramelle. In cartone? No, sciolte. Fu proprio in quell'istante che la porta si aprì e un uomo col vestito nero e disse: tutti a terra, faccia contro il muro, questa è una rapina per davvero. La donna fece un urlo acuto e dopo svenne in mezzo a tutte le sue caramelle e poi le cadde addosso tutto lo scaffale dei regali di Natale. Ale, male, ale, male, ale. Nessuno fuori si accorse di niente. La polizia arrivò dopo la gente e fece un sacco di domande e prese anche le impronte. commerciante deve sporgere denuncia per adesso contro i noti, ma vedrà che sarà un po' chi non si deve preoccupare, lei ci faccia lavorare, noi sappiamo come fare, deve solo collaborare. Lo portarono in questura e lo fecero sedere, uscirà fra qualche mese, dice devono accertare, controllare, verificare, analizzare eventuali connivenze, coincidenze, alibi, alibi, alibi, alibi, alibi, alibi, alibi, alibi, alibi, alibi, alibi. C'erano i signori rossi in Italia negli anni 80, forse era il nome più comune. Sì, sì, sì. Mi ricordo. Abbiamo vinto un mondiale con i signori rossi. Che meraviglia questa crociera, già caro, ed è un'atmosfera sì elegante. Ma che cos'è tutto questo bacano? State buoni e non vi faremo del male, ok? Cosa volete da noi? Capitano, un po' di fantasia, no? Vogliamo tutto l'oro che avete. Panelli, soldi, collane, carte di credito, assegni. Ma non potete, non potete. Perché? Chi ce lo impedisce? È illegale. La pirateria è un reato. Aiutaci a sconfiggerla. Suona dopo una cover band all'Irish Pub di Agrate, la fine del weekend. Due salti giù a Brugherio al festival street food, e poi ci troveremo dietro la star all'autogrill Brianza su Monza. Brianza, capitale della moda, tangenziale con la Skoda, Cologno no, capolinea della verde, piccolo lo, in amore vince chi perde, Monza Brianza, capitale della moda, dell'eleganza, tangenziale con la Skoda, Cologno no. Sul tetto dell'Ikea ho nostalgia di oggi, Milano è un'odissea. Da qui nemmeno Lucio poteva andare via, se sei stata ai miei sobborghi, la mia periferia. Ti cercherò lì sole, tu dove sarai? Al karaoke a Desio, canti rewind e stai cercando. Skoda, Cologno Nord, capolinea della verde, piccolo Lord. In amore vince chi perde, Monza Brianza. Over genere Auroro Borealo, Cologno Lord. Prego dottore, che non voglio disturbare. Frank Coppola, presumibile erede di Laghi Luciano, che vivo il gran boss egli aveva servito da fedele soldato, ha un soprannome, Frank Tre Dita, per via di una mutilazione che si dice si sarebbe autoinflitta allo scopo di estrarre la mano destra incastrata nello sportello di una cassaforte e prendere il largo prima che la polizia lo beccasse. Roba di tanti, tantissimi anni fa, roba degli Stati Uniti al tempo del proibizionismo. Racconta fratello, qual è il tuo peccato? Dimmi con chi, quante volte sei stato? Hai detto bugie, hai fatto la spia? Orsù, perché induci su un frate sei? Ascoltami frate, non so se ho peccato, ho ucciso un bastardo che avrebbe voluto coprire i tuoi soldi, il suo sporco passato. Nel quinto ricorda, ti è stato proibito, non posso salvarti dal fuoco eterno, hai solo un biglietto per l'inferno. Ascoltami frate e dimmi se questo lo chiami peccato o un nobile gesto. Yeah. Biglietto per l'inferno. Confessione. Signora, signora, Franceschina ha versato sul tappeto tutto il succo di frutta. Davvero? Franceschina? Cosa hai combinato? Cattiva! Ma mamma, mi è accaduto per sbaglio. Non è vero, l'ho fatta apposta. Sei proprio un'infamona, Ramona. Da oggi, nei migliori negozi di giocattoli, puoi trovare Ramona, la bambola infamona. Ramona fa la spia, i dispetti e può perfino rompere i tuoi giocattoli. Franceschina, mi fai vedere il ferro da stiro giocattolo che ti ha regalato la mamma? Certo, Ramona. Ramona, la bambola infamona, nei migliori negozi di giocattoli. Beh, intanto che sfuma Brucheroni Pascoli con Renatino, aggiungiamo due appuntamenti così en passant. Quindi questa cosa un po' macabra, interessante allo stesso tempo, Paolo Fresu suona al cimitero di Vicenza venerdì notte a mezzanotte, penso che sia proprio, con un altro fisarmonicista. Che non è male come cosa. E altro appuntamento un po' più nello stesso tempo, diciamo, interessante, non ne so molto, adesso mi informo dopo dal collettivo qua a ZAM, visto che siamo in diretta, riguardo un appuntamento che c'è a Villa Vegan domenica, che è un appuntamento, diciamo, per analizzare questo specie di, penso che sia uno spyware, quindi è un Pegasus, questo virus spia che si installa nei nostri telefonini. Insomma, Villa Vegan spiegano un po' questo virus, che a quanto pare finanziato da grandi potenze e è usato per spiarci sostanzialmente. Piccole info su come liberarsene. Nel pomeriggio. Nel pomeriggio, sì, penso che sia alle 6 del pomeriggio di domenica. Villa Vegan, Nord Milano, Comasina, via Litta Modigliani. Un po' di frammenti. Importante. Dopo quello molto che interessante, detto, sì. Molto interessante. Frammenti. C'era bisogno di dirlo. C'era bisogno, sì, di dirlo col microfono aperto, però. Da Torino. Sì. Allora, per quanto riguarda un altro appuntamento non musicale, perché oggi stiamo mettendo anche qualcosa non prettamente concertistico. Quindi questa è una presentazione di un libro che è questo sabato a Villa Pallavicini. Il libro praticamente è la villa è a zona Crescenzago in via Meucci, si è detto quadrante nord-est, quadrante nord-est, mi dicono dalla regia, sì, in direzione quella lì. C'è cioè la presentazione del documentario video e del libro, libro di Luca Falorni alias Falco Ranuli, e il video di Silvia Micro. Allora, è giusto? Allora, correggimi, diciamo, allora diciamo che c'è Ma vada via RQ, Martin Aglin, Marvin Hagler a giro col Pelé. Sì, esatto, non ho detto il titolo, però vabbè, il titolo lo tenevo per la fine. Insomma, un documentario video super present presentato dalla un video di Luca Fanorni, presentato e montato da Falco Ranuli e poi rimontato da Silvio Micro. Cioè, insomma, esatto, sul Pelé, storico personaggio della leggera milanese. Libri su libri sono stati scritti e c'è un mini doc, non è propriamente un'intervista. Pelé, ricordiamolo, suonatore di tollofono. Urca, a seguire c'è anche il concerto, Dice sì. Non di Pelé, però. Dice sì, tollofono. Che non so cosa sia il tollofono, cos'è? C'è una corda di basso che forse una volta era un vecchio d'amore d'acciaio, questa è una corda di basso, può essere servire un manico e poi inserito in un bidone. Ah, ho capito, una specie è il birimbao italiano, diciamo. Sì, il birimbao dei noaltri, del boom industriale. Il birimbao del boom industriale. Il birimbao del del vecchio. Qui dicono che è gradita la prenotazione, ingresso più tessera più concerto 5 sacchi in Villa Pallavicini per il video. Perché no? Ci faremo un salto col Pelé. E a proposito di Pelé, a proposito di grandi calciatori, una storia, diciamo, abbastanza più recente di un personaggio atipico. Avete presente il cartoon Giappo con i giocatori di pallone e il campo infinito che scorre? Sì, poi come le racconta lui le storie non le racconta nessuno. Sentiamola, questo è un nuovo progetto di un'altra altre ensemble musicali, lui prettamente calcistiche, l'album è tutto sul calcio e... ognuno la interpreta come... E questo è un episodio di quegli anni bui. Di che squadra lo scopriamo? Nel 1994 venne acquistato dalla Reggiana Calcio, allora in Serie A, un ragazzo venuto dal gelo della grande madre Russia, Igor Simutenko. Che era cresciuto con Leonida Brezhnev, Konstantin Chernenko, Yuri Andropov e Mikhail Gorbachev, a 20 anni era la stella della Dinamo Mosca, la squadra dove segnò 24 reti in una sola stagione. Vinse la classifica dei marcatori catapultandosi immediatamente nel calcio che conta, ma dalla porta di servizio, la Reggiana di Franco Dalcin, allenata da Pippo Marchioro. In quei 4 anni a Reggio Emilia l'amore dei tifosi non gli mancò di certo, nonostante le follie societarie, le retrocessioni e uno stadio nuovo, enorme, bellissimo e per anni quasi sempre vuoto. Il primo stadio in Italia costruito direttamente da un club con buona pace della Juventus e dei suoi luccicanti investimenti immobiliari. Non piaceva la Serie B, era pur sempre un titolare della sua nazionale e quando ebbe la possibilità di andare al Bologna non se la fece sfuggire. Ma anche lì venne presto accantonato per far posto ai suoi connazionali Igor Shalimov e Igor Kolivanov. Carletto Mazzone, che lo allenava, non ricordava nemmeno bene il suo nome. Per tutti al campo era Simudengo. Poi un giorno mise piede in campo a fine campionato in una partita che non contava nulla per la sua squadra, ma tutto per lui. Ad un certo punto in area di rigore venne contrastato da un difensore e non trovò di meglio che buttarsi a terra con una simulazione imbarazzante. L'arbitro la beve e Ingesson realizzò il rigore che condannò inopinatamente la Sampdoria alla serie inferiore e lui... Inevitabilmente è un altro campionato. Per 2 miliardi di lire dal Cin lo vendette al Tenerife, ma anche tra le palme Igor non ebbe miglior gloria. Emigrò, primo ex sovietico, nella Major League americana, dove giocò senza lasciare molte tracce. Superati i 30 anni, fece ritorno in patria per una breve comparsata a Rubin Kazan e regalandosi poi un ultimo spettacolo al Voronezh nella mestissima seconda serie russa. Ma finita una carriera non certo clamorosa, Igor ha trovato poi un nuovo spazio sorprendente. Divenne l'assistente personale nonché il traduttore e interprete ufficiale di Spalletti quando il Luciano Nazionale era l'allenatore dello Zenit di San Pietroburgo, o se preferite di Leningrado. Qui a Reggio Emilia Igor Vitalievich Simutenko possiede ancora una casetta in via Veloiannis, perché da queste parti gli si vuole sempre molto bene e ancora ricordiamo volentieri un Reggiana Milan di Coppa Italia in cui il ragazzo venuto dagli Urali fece un tunnel a Franco Baresi, sì signore, e poi andò in gol sotto al suo naso. Una cosa che in provincia non si è vista. Quasi mai. E grandi costi così mai. Sì, adesso devo rivedermi sto tunnel, perché Materazzi non so se ci Future credo. Club. Tra l'altro adesso è allenatore dello Zenit, mentre prima era il traduttore di Spalletti, adesso lo allena proprio lo Zenit di San Pietroburgo. Simutenkov. Igor. Vabbè, comunque questi erano i Materazzi Future Club, con la voce di Max Collini, che per l'occasione ha prestato, diciamo, la storia, insomma, e l'ha letta e l'ha interpretata Max Collini degli Offlaga Disco Pax, chiaramente. Altro mini appuntamento al parco di Genova. Sì. Vabbè, è una scusa, in realtà li volevo mettere e ho visto per caso che suonano sabato al parco a Genova. Però al parco, parco libero pubblico accesso, parco libero pubblico accesso, focacce e birrette, ti ragazzi, dico anche di più, ragazzi. Capito? Quindi presentano il loro nuovo album, voi chiaramente noi vi facciamo ascoltare un pezzo vecchio. Io leggo Vintage Violence. E leggi bene, leggi bene. Abbronzarsi il culo. Oh yeah. Cantautori come manager d'azienda si ipotecano il Mercedes per aprire Renga. Abbonati alle riviste di opinione per guadagnare mezzo punto nella recensione. Quando ero bambino ho inventato una macchina per viaggiare nel futuro. Come vedi ha funzionato, ma c'è qualche anomalia. Fare musica in Italia è come abbronzarsi il culo. Se ne accorgono solo in pochi se non lo dai via. Pino Pinelli è l'undicesima autopsia. Perché da un corpo prenda corpo la democrazia. Non sono d'accordo con quello che dici, ma non ti ammazzo. Difenderò il tuo diritto a dirlo, purché non cambi un cazzo. Quando ero bambino ho inventato una macchina per viaggiare nel futuro. Come vedi ha funzionato, ma c'è qualche anomalia. Fare musica in Italia è come abbronzarsi il culo. Se ne accorgono solo in pochi se non lo dai via. Se ne accorgono solo in pochi se non lo dai via. Se ne accorgono solo in pochi se non lo dai via. Oggi, dopo la deposizione resa il 22 maggio da Coppola davanti alla sezione promiscua del Tribunale di Palermo, che lo processa insieme ad altri 75 mafiosi e presunti tali, sarebbe più giusto chiamarlo Frank 3 miliardi. A tanto scende il suo patrimonio per sua dichiarazione resa a verbale su domanda del presidente Gallo. «È vero che il suo patrimonio ascende a circa 3 miliardi?» gli aveva chiesto un magistrato. «Sì, grazie a Dio», ha risposto il 75enne imputato con slancio d'un cadore incredibile, con tono di chi ammette con gioia di aver avuto dalla provvidenza figli belli e sani. Assurdo, scimmie volanti e macchine del tempo, e siamo tutti quanti dentro il grande esperimento. Fatti un trapianto di personalità che ci guadagni in popolarità e sale l'indice di gradimento. È tutta una casualità in questo tempo, fermo, con le prese per il culo tutto schermo. La gente che mi strilla nelle orecchie ma non sento. Ho chiuso con il mondo, ho tagliato ogni collegamento. Eppure ce ne sono ancora tanti, sì, e si vivono, e nel sangue hanno cellule mutanti. Li vedo ad occhio nudo e non mi illudo, stanno prendendo il nostro posto e sarà il mondo in mano ai replicanti. Cibi che sanno di conservanti, è un mondo che va avanti ad antidepressivi e stimolanti. Ma non basta, in mezzo a questa caspa un altro che sorpassa e mi sorride con la faccia che gli casca. Assurdo, è assurdo, assurdo, assurdo. sei più un uomo, zio, sei solo un dato di mercato. Ed è un dato di fatto che sei fatto spacciato. Sei un numero, una cifra sopra il loro tabulato. In questa gara a chi corre sul rasoio più affilato. Il futuro è cominciato già da un pezzo. Un altro giorno nell'agglomerato urbano, un'altra messa in mezzo. Un pass per l'apocalisse prossima all'evento. Le macchine che presto prenderanno il sopravvento. Zio, che tempo, non mi lamento, ma ogni giorno mi inginocchio e prendo a capocciate il pavimento. A breve pure l'aria a pagamento. Benvenuto nell'assurdo dove tutto, anche la morte, è intrattenimento. E non dirmi che è violento, ogni intervento è stato calibrato. Ogni scontento sarà rimborsato. Questo è il futuro che ti hanno progettato e tu non te ne rendi conto, ma è appena cominciato ed è assurdo. Inventeranno nuove divinità, nuovi sogni artificiali. Costruiranno nuove chiese, nuove cattedrali. Inventeranno nuove droghe, nuove armi per darti nuove possibilità per suicidarti. Così che a farti fuori loro neanche si sporcano le mani. E tutto sarà fatto in nome del domani. Quando dai piani alti della grande città daranno il via all'esecuzione, chi sopravviverà alla grande mutazione? E sarà il cielo, e sarà una nuova morte. Poi saranno cronache di civiltà sepolte, verità distorte sopra gli schermi giganti, per cancellare il sangue con l'odore dei disinfettanti. Vetri infranti e nessuno ci avrà più da ridere. E la gente allora si ricorderà che vivere non è soltanto ingurgitare tutto pur di andare avanti. Ma quando lo capirà sarà troppo tardi. Assurdo. Che lei è un miserabile, ecco, carogna d'un vigliacco. Faccia come crede lei, ma se ne pentirà, no, perché ci deve essere una legge. Mi la mandi in galera, mancata assistenza, qualcosa del genere, insomma. Star lì a mangiare, lasciando digiuno gli altri. Già, ma bisogna riflettere che se c'è stava una legge di questo genere stavano in galera tutti i ricchi del mondo. Ma siccome questa legge non c'è, in galera ci stanno solo i poveri. Comunista del cazzo! Ai, ai, ai. Allora, Frank. Ai. Massaggio prostatico. Quello di prima era Artificial Kid. Numero 46. Assurdo. Contributo dei Normanni. Questi sono i Franchetti, eh. Paranoica, torno sul divano, penso nella tuta, sbirri sotto casa. Mia paranoica, torno sul divano, soldi nella tuta, sbirri sotto casa. Socialismo reale, sesso occasionale, socio proletario. Sono marxessuale, sto facendo brazzer, bevo vodka e soia, vado in paranoia. Lei mi chiama Troia perché odio il patriarcato. Esco dalla NATO, porno bolscevico, sono ursizzato. Xanax e Dubrovka, sexy partigiano, bevo sul divano, sto facendo sex work. Emilia paranoica, ai, ai. Cominciato in parkour, Stalin e Troia. Emilia paranoica. Oh, bravi Franchetti. Bravi. Franchetti con Perestroika. Bravi Franchetti. E bravi. Bravi Franchetti. Ma dica. No, volevo ricordare che è base l'uomo mosca. In Francia, il casello autostradale. Un blocco, un paratorio. Ho letto che c'è stata una vera fuga con... Ma non una fuga di notizie. Con deragliamento di mezzi. Una fuga dall'auto al casello. Sì. Con tanti spari, con un bel tanti... ciocchetto anche. Sì. Bevo. Rubo uno al giorno. Io sono un duro e agli amici divertimento assicuro. E quando li vedo un po' tristi, allora schiaccio tutti i ciclisti. Soprattutto quando loro sono in gruppo e mi diverto troppo. Guido solo quando bevo. Mi piace così. Che ho l'occhiale scuro, fumo sigari strani e brucio tutti i sedili e i divani, soprattutto se son di giaguaro, è un godimento raro. Io sono un duro, mi impasto sempre nel muro, quello di casa mia. E poi arriva la polizia, tutte le notti le passo dentro e così sono contento. Guido solo quando bevo, è la mia religione. Guido solo quando bevo, alcolista convinto. Guido bevo, sì, nessun sì, pentimento. Guido solo quando bevo, nessun pentimento. Guido solo quando bevo, sì, e guido anche male. Concordo. E ci ho trovato che con Freak adesso lava nel contributo, quindi che combinazione, non so che altro aggiungere. Belli fulminati nel bosco, belli. Che voglia di cioccolata. Peccato che sono a dieta. Beh, anch'io sono a dieta, ma alla cioccolata non rinuncio. E come fai? Mangio Diet Choco. La cioccolata senza grassi né zucchero. Diet Choco è la nuova cioccolata dietetica per chi non vuole rinunciare ai piaceri della vita. Diet Choco è senza latte, senza cacao, senza burro, senza zucchero, senza amidi, senza carboidrati, senza colesterolo. Tieni, assaggia. Ma non sa di niente. perché non c'è niente. Diet Choco ha solo l'aspetto della cioccolata e contiene soltanto 10 calorie a barretta. Tieni, assaggia ancora. No, no, grazie. Mi risparmio volentieri anche queste 10 calorie. Dai, non fare complimenti. Ma non faccio complimenti. Appena finita la dieta mangerò un pezzetto di cioccolata vera. Ma intanto mangia questa. Ma te la mangi te, sta schifezza. Ma solo 10 calorie. No, grazie. Preferisco un finocchio. Ma questa è cioccolata. Che è questa? Almeno mi fa incazzare, eh? Diet Choco, la cioccolata di chi vuole stare in forma. E se la richiami cioccolata ti gonfio. Smorziamo, eh? Smorziamo i toni, facciamo apposta, no? Sì. Ovviamente. Mi è piaciuta la recita. Tutto sottovoce. Maria Antonietta. Volevo sequestrarti al mondo intero e alla felicità, agli amici, ai diversivi, ai dischi tristi, ai locali punk. Volevo sequestrarti anche a Dio perché tu fossi solamente mio, mio, mio. 我哋觉得问题嘅根源系我哋香港仍然冇全面嘅立法会同埋特行政长官嘅全面普选，所以我哋要求2020年立法会嘅选举系需要有全民嘅普选嘅。一国两制就系香港嘅法制同内地嘅法制咧系分隔开，嗱佢冇履行到中日声明嘅承诺，咁即系佢可唔可以再次？ 行使对香港嘅主权。To date, more than 1,500 Hong Kongers, the youngest at the age of 12 years old, have been unreasonably arrested. Yes, that pain is my pain. Questo qui è il documentario sui fatti di Tokyo, non so se vi ricordate cosa è successo a Tokyo, Hong Kong, scusate lapsus, sì, è un doi, la bomba atomica. Amnesty has gone on to say that these are not policing measures, these are officers out of control. Hong Kong, nel Parlamento di Hong Kong, insomma, praticamente nel Parlamento, la voce? Nel Parlamento di Hong Kong lo occuparono all'inizio delle proteste, tanto per fare un esempio, e una volta entrati dentro una parte voleva restare, decise di restare, e parte della manifestazione fuori disse dobbiamo andarli a prendere perché non possiamo abbandonarli lì, se poi li pigliano con gli altri li fanno fuori, li fanno sparire. Allora tutta la manifestazione tornò indietro e disse minga, ci sono quattro cavalieri della luce dentro, dobbiamo riprenderli. Ma questi sono i fatti del 97? Questa è la realtà. 97, no? Siamo nel... No, no. Che 97? 17, no, il passaggio 18, di Hong 19. Kong da... Passaggio Hong Kong è la roba della storia, ma tipo questi qui è quello che è successo tre anni fa, quattro anni fa. Ok, ok. Prima del Covid, durante... non mi ricordo più, con le date faccio un po' di confusione, però... Entro gli ultimi cinque anni è successo, cioè 2017-2018. Dobbiamo ascoltarci il trailer così capiamo qualcosa. Sì, comunque è un documentario che trovate sottotitolato. Sì. Revolution of Our Times. Sono due ore di lavoro, un po' indietro le quinte di qualcuno di lì, comunque, di hongkongese la lavorazione. C'est dangereux. Hongkongese il filmato. Questi li troverete a Bologna il 21 maggio in Piazza Grande. Arrivate all'ora che volete. Ma consigliano al mattino in realtà, eh? Consigliano al mattino, c'è una versione che consiglia di arrivare al mattino presto, inizio montaggio, vabbè, cioè con calma, alle 9, però proprio inizio montaggio qua. Per l'aria fresca, insomma. Sì, sì. No, poi c'è l'appuntamento all'ora della verità. Si scalda. Sì, no, certo, c'erano queste due versioni. Sono maggiore a Bologna. Sì. Mi dovete spiegare perché non è meglio che quella roba si leva da mezzo per fare tanti palazzi come questo qua. Perché prendete questa posizione contro di me? Perché? Lo fate per confondere le idee alla gente per la vostra politica? Voglio solo fargli capire chi siete voi e chi sono quelli come voi. Chi sono io? Io sono uno che rischia il suo tempo, i suoi soldi e la sua fatica per fare sparire queste catapecchie fedenti. Ma non è vero niente. I fatti sono altri. Voi siete un fuorilegge. La legge stabilisce un piano regolatore e poi ve ne infischiate. La legge stabilisce che non bisogna fare danno alla gente e poi gli togliete le case, gli togliete il lavoro e non mi importa niente di dove vanno a finire, perché certo non vanno a finire in case come queste. Io non sono un benefattore. E chi lo pretende? Ma voi non mi fermate davanti a niente. Ci sono stati dei morti per il crollo, un bambino ha perso le gambe e voi niente. E tutto questo solo per riempire i soldi le vostre tasche. Questi sono i vostri sistemi e contro questi sistemi io combatto, non contro i palazzi. A me basta che i palazzi siano costruiti dove e come vuole la legge e non dove e come volete voi. È aperto? Questa la dedicate a chi volete. Mi dai fastidio. I Camillas. Io Bucolico e Maria Antonietta. Mi dai fastidio. Defibrillatore. Mi dai fastidio. Ascoltatore. Mi dai fastidio. Educatore. Mi dai fastidio. Coordinatore. Mi dai fastidio. Assicuratore. Mi dai fastidio. Scampanellatore. Mi dai fastidio. Tu mi dai fastidio. Sapienza del 22 maggio ha posto a confronto due personaggi chiave del conflitto tra mafia e polizia di questi ultimi anni: il vecchio Frank e il discusso questore Angelo Mangano, personificazione del super poliziotto dotato di licenze varie dall'ex capo della polizia Vicari. Dire al termine di questo scontro furibondo che la verità si è emersa limpidamente dal reciproco scambio di accuse, per non parlare del diluvio di insulti lanciati da Coppola al questore imperterrito, sarebbe eccessivo. Sono però emerse delle verità. Questa è la prima puntata. Prima puntata, uno stralcio di un articolo di questa rivista che, di quanti anni che ha, usciva esattamente il 2/6/1974. 1974, avete udito tutti con le vostre orecchie cosa ho letto e avete udito la data, c'è un testimone, siamo più testimoni. Sì, è un sette giorni, no? È il giornale, il nome un, di questa rivista che questa rivista all'epoca. Che in, abbastanza può essere inaspettatamente, ma in realtà è molto aspettatamente, ci sono e ritornano nomi che poi entrano nella storia, nella nostra storia, nella non nostra in quella di qualcun altro, nella nostra storia. E sono sempre quelli, sono sempre quelli. Quindi andremo avanti, magari nelle prossime puntate, da bravi scienziati, a continuare la ricerca nel passato per capire nel passato il presente. Per capire il presente. Noi scienziati si studia. Sa, prova. Dalla battuta 4. Se non era una cosa difficile, non avremmo chiamato lei, ma avremmo mandato un funzionario qualsiasi, giusto? Mr. Rinaldi from Italy. Terranova, occhio a questo. Questo è un fenomeno, ha fatto le Olimpiadi di spada. Ero solo riserva. Lui, tell me, take this to my uncle in the room. He sent me money. Sembra un grande videogame. A noi piace giocare, soprattutto se si vince qualcosa. Non possiamo più aspettare. Noi vogliamo fermiate le barche presenti in acque libiche. Siete voi che dovete fare qualcosa, adesso. Questo non è il solito paese sfigato dell'Africa. Qui il potere è una cosa seria ed è tribale. Lì c'è il rubinetto che regola il flusso. E lei lo deve e lo può chiudere. Non ho più tempo. E qualcuno lo sa. Solo tu. Poi invece è tutto irrimediabilmente beige. Papà, tu hai ucciso qualcuno? Noi siamo il paese che salva le vite umane. Ma non possiamo continuare a fare entrare tutti. Tu non ce le hai le testimonianze contro Mustafa, vero? No? Dottore, tutto bene? Dottor Rinaldi è pazzo. Allora, questo è un altro film, in realtà, un film uscito adesso, dedicato a tutti quelli che parlano di complottismo. Sì, insomma, molto interessante, molto da vedere, molto contemporaneo, uno schiaffo in faccia, ve lo dico subito, ma la realtà è uno schiaffo in faccia. La nostra è la pillola rossa, è quella che si prende e quindi per c'è poco realtà da fare, gli schiaffi te li devi pigliare in qualche maniera. L'ordine delle cose con... Cercatelo in ogni punto con una parte del gota del cinema nord italiano, diciamo, dell'est sì, delle dalle Venezie, voci si sentiva Battiston. Delle Tre Venezie, un altro personaggio sempre di quella ganga lì. Comunque, sì, scusate l'impreparazione nomeale, ma... Inserito all'ultimo momento, perché ci piace fare le cose un po'... Perché abbiamo visto fin ieri, quindi... E quindi le cose in diretta, subito. Per chi non ha mal di schiena. Giorni che non passano. Come le vengono? Lettone Bellone al mixer. So che no la rossa da Zanna in diretta. Una cosa strana in testa che non mi lascia vivere, perché una spinta, un interesse che non trovo più, che mi aiuti un po'. E sto aspettando ancora, un giorno nuovo sarà, e la mia vita ancora ricomincerà. Pensieri che ti possano turbar, se non c'è nulla che ti possa far tornare. Trovi tutto nuovo intorno a te, trovi bello quello che non c'è, una spinta, un interesse, quello che non vuoi, tu non l'avrai mai. E sto aspettando ancora, un giorno nuovo sarà. Ora sì che mi va vivere così, non ho più intorno a me chi non capirà. Le tapparelle maledette, roba d'altri tempi. Sì. In Mulue, poi passiamo a questo che è totalmente diverso. Tempi contemporanei, possiamo chiamarli contemporanei? Sì, è di un po' di anni fa, dai. Sì, cioè, vivente l'altro giorno, no? Quattro vivente. Cioè, vivente, sì, vivente, vivente nella frangente. Cioè, non ci si vede anche tutti i giorni, ma dici, sai, non, magari. Lui non si vede tanto, effettivamente. No, eh. Si vede in più i suoi soci si vedono. Lui è rimasto un po' nell'ombra. Scelta sua? No, non so, cioè non la lo sappiamo, sa. Non seguiamo e non lo conosciamo. Cioè, non lo conosciamo, esattamente, conosciamo. Quindi possiamo andare in pezzo sapendo che non conosciamo nessuna delle persone nominate in nessuno. Questo pezzo. Nessuno. Sono i doppi, significati, sì, no? Nettuno, Belluno, Belluno, Nettuno. In affanno. Lei è qualcosa che mi sei basta, bellissimo. Piccola, piccola, pure in tasca, bella e vellutata proprio come pesca, un'esca per la mia vita grottesca. Voglio io non pensarci più, a domani sogni fritti che non amo più. Voglio pensare a un mondo migliore, c'è lei che mi leva tutto lo squallore. Un'ora, due ore, qual è il buon umore? So solo che c'è lei con il suo sapore. Un'impiegata vita, ma lei che amore. Sudore, ci vuole molto calore. È con lei che mi sveglio ogni mattina, è con lei che prendo sonno di sera. Se c'è lei mi rilasso un momento, se c'è lei un'altra volta e poi smetto. Mamma, guarda quello come guida strano. Secondo me c'è lei sopra la sua mano. Il soprano non stona se c'è lei, ti amo. Andiamo tutti in tenda e ci facciamo compagnia. E così sia, so solo che la vita è una sfiga. Che vuoi che sia, c'è lei, più si concede, più è mia. Lei, la mia vita solo per lei. È con lei che mi sveglio ogni mattina, è con lei che prendo sonno. Posto e già ti manca, brutta carogna che faccia stanca, bianca la mia vita arranca, nascosta dentro la panca, è lei che mi manca. Resto a casa per non seguire lei, io spengo il cervello per non pensare a lei, in testa solo lei, in vena sempre lei, riesco a far l'amore solamente è con lei. È con lei che mi sveglio ogni mattina, è con lei che prendo sonno di sera. Lei e niente, Nettuno, qui siamo ai saluti, perché siamo in salumi al novantesimo, ragazzi. Siamo al novantesimo. Al novantesimo, sì. Sì, novantesimo. Quindi l'ultimo pezzo è in pieno recupero. La prossima volta riusciremo a lanciarvi un numero di telefono nell'area. E chi nel lo lettere? Sa, chi lo sa, nel chi lettere? Lo sa. Comunque, vabbè, preparate, la penna. Fai la penna con i motorini? Ma, boh. E niente, ci vediamo mercoledì prossimo alla puntata tonda, alla numero 10, candeline. Ma in realtà sì, secondo me bisogna fare le stagioni da meno di 10, no? Quella cosa epica, tu c'hai quella cosa. Ah, tipo la mini stagione. No, più che altro senza arrivare al doppio numero. 9. Sennò poi quello ne prevede. Tu la vuoi chiudere qua? La vuoi chiudere qua con dica così, proprio tatrac con cioè lanci il numero, però